sono al limite, è impossibile lasciare alle spalle la notte. Si è spenta l'iride, vene gelide, e come tutte le volte sola, sola, alone. Ti giuro che non lo so cosa farò, sono sempre la prima a sbagliare e ogni volta fa male. Guardo la luna che sorge, mi illumina il volto, la luce mi inghiotte, mi fa sentire che ho sprecato le forze. Le giornate storte sembrano rotte e sotto questa moon veleno tu nemmeno sai resistere al vuoto, gestire il disordine, disordine. Sto sulle nuvole, vuoi salire su da me? Sento i passi arrivare ma non posso aspettare. Senza regole, amore shuriken, resto qui a sanguinare. Come quando mi ritrovo sola, sola, alone. Ti giuro che non lo so cosa farò, sono sempre la prima a sbagliare e ogni volta fa male. Guardo la luna che sorge, mi illumina il volto, la luce mi inghiotte, mi fa sentire che ho sprecato le forze. Le giornate storte sembrano rotte e sotto questa moon veleno tu nemmeno sai resistere al vuoto, gestire il disordine, disordine. Pensavo mi inghiotte, mi fa sentire che ho sprecato le forze. Le giornate storte sembrano